work on you. Got my mojo working, but it just won't work. I spin the shred and dynamite, drink nothing, folks, but that is night. Back in Akazaka, where the fellas do the back and the women will be wacky. It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing. C'è una cosa che mi fa tanto male, è l'acqua minerale. Miracolosa sarà, ma per piacere io non la posso bere. Perdonate se ho il whisky facile. Yeah, mama, I'm gonna start a reading saying you've been out boogie woogie and there's something I don't understand. I want you to tell me, mama, who was that a while ago? Yes, when I come in, do what I can. Buonasera, buonasera Alessandro, come stai? Buonasera, benissimo, benissimo, pronto per la puntata numero 118. Numero troppe, quante ne abbiamo fatte? Di Whiskey Trip, Blues e Jazz, sola andata su Radio Default. Che poi stasera Alessandro, a me è preso pure un colpo perché vado a vedere gli ascoltatori, c'erano però pochissimi, poi mi affaccio di qua che stanno in realtà tutti ascoltandoci live, tutti dal vivo, quindi un saluto a sti ragazzi che ci supporteranno stasera. E quindi vabbè, che facciamo? Scaldiamoci con un grande classico, un evergreen. Partiamo con al volo, proprio così, con un Robert Johnson, che di cui non vuoi dire chi era Robert Johnson? No, perché lo sanno, se no che stavamo a fare Whiskey Trip? Cioè, stavamo a fare due anni. No, ormai lo sanno. Ormai lo sanno. Mostri sullo schermo del computer. C'è un mostro, sì, c'è tipo una mosca però grande 6 centimetri, vabbè, moriremo nel frattempo. E niente, vi facciamo ascoltare Kind Hearted Woman Blues, che è un pezzo di, come diciamo, Robert Johnson del 1936. E a tra poco. Kind-hearted woman, anything is worth for me. I got a kind-hearted woman, anything is worth for me. I see the united women, and they will not let me be. Baby, oh baby, don't love me. I love my baby. Ooh, my baby, don't love me. liberty one thing. Fix Mr. Johnson train. I swear about how you treat me, baby. I begin to think, oh, babe, my life don't feel the same. You break my heart when you call Mr. So-and-so's name. Tornati dopo questo grande classico. Allora, intanto ragazzi, devo annunciare che è un puntatone. Già mi sentite un po' che c'ho il rutto in canna, che non è nemmeno molto educato in radio, però che Radio Default vuol dire qualità, lo sappiamo, questo è stato riscontrato nel tempo. E però stasera sarà un puntatone perché tra le varie sottomarche di birra che circolano nel frigo, stasera è tornata quella che c'è il frate Panzone sull'etichetta. Sì, e quindi questa mo finisce a ridere, raga. Stasera ci vuole una traccia a tema, Alessandro. La Kenner. Non la puoi fare pubblicità alla Kenner. Del frate. Mo la conosceranno. Del frate Panzone. Ma mo, cioè. Non si può fare, adesso su. Non prende mazzette dalla Kenner, dai, su. No, Whisky Trip prende mazzette. Mi dissocio, mi dissocio dalle distillerie del Kentucky. Noi siamo gli antiproibizionisti che spacciano l'alcol, va bene. Sì, la canzone, buona serata prima di tutto a tutti gli ascoltatori, quelli che ci ascoltano, ogni puntata ci seguono. E la canzone è a tema, aiuto. Perché questo pezzo famoso di Amos Milburn, un pianista, un cantante blues, il pezzo si chiama One Scotch, One Bourbon, One Beer. Parla di noi, chissà di quale birra parlava Amos Milburn. Ma Amos Milburn è stato testimonial della Kenner. Sì, ma ti ricordi, c'era pure lo spot. Sì, quella pubblicità che incluso al CD c'era la birra, il boccale. Incluso la birra c'era il CD. Ti ricordi? Sentite, storiella, momento storia, perché dietro la carriera di Amos Milburn c'è una storia da raccontare. Lui è un cantante e pianista blues originario di Houston, in Texas, dove avevano un problema. E pensate che durante la Seconda Guerra Mondiale Amos, sembra il nome di un moschettiere, prestò servizio nella Marina Militare. Mosche. L'animale mi sta salendo, quello famoso. E guadagnando ben 13 medaglie al valore nelle battaglie contro i giapponesi nelle Filippine. Dai. Un guerrafondaio, vedi questi pianisti blues. E ben 13 medaglie al valore e ritornato in patria ebbe una brillante carriera da pianista e tra i suoi successi c'è appunto questa famosa One Scotch, One Bourbon, One Beer, che è una drinking song così cosiddette drinking song, si ascoltano quando si beve. E allora, buona bevuta, buon ascolto. Questa canzone è stata poi portata al successo da molti altri artisti. Noi ce anche l'ha... Johnny Hooker, questa Johnny Hooker, però una cosa, diciamo, Rudy Toms, che noi siamo più dalla parte dei pianisti che dalla parte dei soldati. Assolutamente. Possiamo dire, sto Amos lì ha fatto un errore, ma chissà, però perché non va ruolate, cazzo. Non me lo fate dire. Piuttosto beviamoci una bella birra. Beviamoci pure due birre. Ascoltiamoci Amos, sì. Versione il originale. Il Redento Amos. Redento, versione originale. One scotch, one bourbon, one beer. Amos Milburn con la sua One Scotch, One Bourbon, One Beer. Uno scotch, un bourbon, una birra e avanti. Però avanti mischiava male, mischiava male. Io ve lo dico per esperienza, poi fate come ve pare. Uno ve lo dice con intenzioni paterne, in effetti, paterne, se mi posso sì. permettere. E va bene, Alessà, su questo pezzo che spinge i giovani ad ubriacarsi. Ad una vita morigerata. Ma sì, ma in fondo la vita è una, toccherà raccontargli qualcosa ai nipoti. Io ti risponderei direttamente con ti dico il titolo del pezzo. Black Knights, ti dice qualcosa? Black Knights. Dai, dai, ti dice o non ti dice? Non mi dice, mi ti dice. È dei Deep Purple. No. No. No, quella. Ah. Vabbè, ragazzi, no. Lowell Fulson, Alessandro. Lowell Fulson. Un chitarrista che, vabbè, è stato uno dei migliori della tradizione blues della West Coast, attivissimo fra il 40 e il 50, potremmo dire tante cose, ma preferiamo che sia la musica a parlare, fa professionale, sì. Detto così, dimmelo te, eh? Sì, fa professionale, sì. E poi lo abbiamo già ascoltato diverse volte qui a Whiskey Trip. Io non c'ero. Davvero? Sì, sì, sì. C'eri. Lui è un grande, veramente un grande chitarrista blues. Pensate. Vabbè, allora riascoltiamocelo. Buon ascolto su Radio Default. Allora, no, si era non sentivo il background, dicevo dove è finito. Sta cambiando track. Sta cambiando il background. Comunque, in tema di chitarristi, eccolo. In tema di chitarristi, blues, folk, oggi in questa puntata ho portato diversi chitarristi. Abbiamo diverse tracce che riguardano suonate da chitarristi, tra blues, folk, rockabilly, country, ci sono tantissimi chitarristi, e alcuni molto conosciuti, alcuni meno. E è il caso di questo Scotty Anderson. Chi? Scotty Anderson. Ma chi è? No. E dai, tu che sei un intenditore lo conoscerai, ti ricorderai delle sue interpretazioni, no. dei classici del country, del rockabilly, uno stile... Beh, Scotty Anderson è un chitarrista autodidatta. Il cugino di Alessandro, ragazzi, Scotty Anderson, cioè, nepotismo a Whiskey Trip, lanciato un lontano giro, no? Parente americano, no, è un chitarrista autodidatta, ha imparato a suonare la chitarra da bambino, da solo, me lo immagino, da solo nella sua stanza, no, in realtà ben presto, sai dove si è fatto le ossa? No. Nei nightclub del Kentucky. In che senso? Non è che si è fatto le ossa. Ah. Allora, ha iniziato a suonare, ha imparato, ha affinato il suo stile nei nightclub del Kentucky. E poi ha avuto una carriera tra il blues e il folk. Se cerchi su Google, se cercate su non Google, c'è, se cerco su Google, ecco, conosci solo tu. C'è il suo sito che non funziona. Però potete leggere la sua biografia, la sua lunga discografia. Ma comunque, bando alle chiacchiere, era un chitarrista eccezionale. E adesso mi voglio fidare. Questi due pezzi ce lo possono dimostrare. E quindi vi auguro buon ascolto con Scotty Anderson e la sua chitarra in duetto con Bob Saxton. Pure lui, un altro amico. Però i pezzi sono senz'altro famosissimi. Uno è un classico di Johnny Cash, I Still Miss Someone, e l'altra è Mystery Train. Mystery Train, certo. Classico di Doors. Dai, classico anche Elvis aveva il repertorio Mystery Train. Allora, Scotty Anderson, chitarrista più famoso d'America, I Still Miss Someone e Mystery Train. Thank you. Ed era Scotty Anderson, famoso Scotty Anderson, eccoci tornati in diretta. Ci scrivono, ci bussano alla porta, si calano con gli elicotteri, tutti in delirio perché hai passato il loro idolo Scotty Anderson. Grazie, spero che vi sia piaciuto. No, comunque seriamente molto bello, questo lo devo dire. Veramente bravo. Un artista interessante, un artista di questi tempi, che comunque porta avanti un determinato tipo di genere, e questo gli fa onore. Quindi io andrei direttamente a parlare di Gary Clark Jr., da non confondersi con Gary Clark, l'attore, vero Alessandro? Sì. Che è un cantante, un chitarrista, anche un attore. Anche un attore. Leggo il mio database. Sì. Anche lui texano, come chi ci avevamo prima? Come Amos Milburn. Sì, lui. I texani ce l'hanno un pochino questa cosa della guerra. Sì, i texani, sì, davvero, un po' sì. Però allora, di Gary Clark Jr. molti ne parlano addirittura come il futuro del blues. Ma come lo vedi tu il futuro del blues, Alessandro? Domanda da un milione di dollari. Lo vedo... Beh, allora, lui è dell'84. C'ha gli anni miei. C'ha gli anni nostri. Gli anni tuoi pure. Sì. il blues è qualcosa che non ha tempo. È fuori del tempo e quindi presente, passato e futuro si perdono nella poesia del blues. Io adoro poter attingere a piene mani dentro sto barile, pozzo di filosofia spinta. Grazie Alessandro, grazie per le emozioni che susciti in tutti noi. E va bene, ho visto anche un suo video di Gary Clark che ha suonato Catfish Blues, un famoso standard. Sì. Alla Casa Bianca addirittura, mo, quello militare, questo va a suonare per Obama. Però, mo, una cosa, allora, Whiskey Trip non è che, cioè, almeno io parlo per me, mo sto Obama in piccetti suoi ce l'ha. Però, secondo me Obama ascolta tipo hip hop. Ma sì, cioè, però no, nel video si vede lui, cioè, che proprio fa quello che solo sente il blues, capito? Sa proprio roccheggia, ma pure la moglie, lì come si chiama, Michelle. Vabbè, allora, senti, ascoltiamo e vediamo se va bene come futuro. Dai. O seppure no. Allora, ascoltiamo due pezzi suoi. Il primo è Numb e il secondo live, ci ascoltiamo Bright Lights e ci troviamo tra poco sempre su Radio Default. Thank you. Ci piace come futuro del blues, Alessà? Mi è piaciuto molto questo pezzo dal vivo, quest'ultimo che abbiamo ascoltato, e con due batteristi, tra l'altro. Hai visto che roba, hai visto? Sì. E appena abbiamo messo la prima traccia, il commento di Alessandro è stato ignorante. Quindi ragazzi, bella robetta, e l'ascolteremo con attenzione questo Gary Clark Jr. Alessandro, cosa è in serbo per noi? Allora, io no, in ancora... serbo, diccelo in italiano perché sennò non capiamo. Ok, allora sì. Cambia appunti, traduco italici. Gli appunti in italiano e nel frattempo ancora rimaniamo sulla chitarra. E questo è un altro grande chitarrista. Che sebbene non sia famoso come alcune star della chitarra, come magari non so, Eric Clapton, Muddy Waters, ma lui si chiama Danny Gatton, ha uno stile unico che unisce il blues, il jazz, il rockabilly, il country. E ringrazio mio amico che me lo ha fatto conoscere, Marco Vito, e se ci ascolta lo ringrazio, che mi ha fatto scoprire questo chitarrista Danny Gatton americano, veramente molto molto bravo, e che miscela il blues al jazz, al rockabilly, al country. Impara a suonare la chitarra fin da bambino, imparando dal padre, anche lui un chitarrista, quindi figlio di d'arte, e ben presto inizia la sua carriera già dagli anni 70 nelle band Liz Meyer and Friends e nei Redneck Jazz Explosion. E sì, è rimasto piuttosto nell'ombra, ma direi proprio non meritata questa celebrità, perché è veramente veramente un grande. E allora ce lo ascoltiamo con uno sfrenato boogie woogie, dove lui si lancia in un incredibile assolo, e a un certo punto suona la sua Telecaster con una bottiglia di birra come slide, e accompagnato tra l'altro da un grandissimo Bill Holloman al pianoforte e al sassofono. E allora buon ascolto con Danny Gatton e Boogie Woogie with a Can of Beer. Alright, we got one more a Boogie Woogie tune. One of these days I'm gonna get a beer commercial out of this when you see what I'm getting ready to do. Wow, she's my boogie, boogie, boogie. Yeah, my boogie, boogie, boogie. Boogie, boogie, boogie. Honky tonky country girl. She's the apple of my eye, a dream come true. The more love she gives, the more I can use. Nights alone, I'm holding her tight. In my arms, I'm in paradise. 'Cause she's my boogie, boogie, boogie. Yeah, my boogie, boogie, boogie. Boogie, boogie, boogie. Honky tonky country girl. Good time mama loves to rock and roll. She can do it all, both body and soul. A rainbow rider when sips her wine. She gets to stay looking at her. She's my boogie, boogie, boogie. Yeah, my boogie, boogie, boogie. Boogie, boogie, boogie. Boogie, talking country girl. Come on, baby. all, but I'm thirsty. Hold on. We realize this isn't legal, but who cares? I'm old enough to drink. Been a long day. Your brand could be here. Sneaky, wasn't it? As high as it goes. So why you get your two-step looking mighty, mighty fine? She's my boogie, boogie, boogie. Yeah, my boogie, boogie, boogie. Boogie, boogie, boogie. Oh, it's all the country, girl. Come on, yeah. She's my boogie, boogie, boogie. She's my boogie, boogie, boogie. She's my boogie, boogie, boogie. Yeah, my boogie, boogie, boogie. Boogie, boogie, boogie. Oh, it's all the country, girl. Thank you so much. Applausi, applausi meritati per Danny Gatton qui su Whiskey Trip, Blues e Jazz sola andata. Continua il nostro viaggio attraverso il blues, il jazz, il folk, il country, con la grande musica. E chi più ne ha più ne mette. Chi più ne ha più ne mette, le birre con i frati, panzoni. Frate panzone, pensa anche tu. E vabbè, dato che parlavi di questo straordinario artista, e straordinario devo proprio dirlo, perché abbiamo, noi siamo più fortunati di voi, avevamo anche un supporto video che non possiamo darvi per radio, è eccezionale, eccezionale, quella chitarra che fischia, piacerebbe tanto al nostro Pindaro la chitarra che fischia, vero Alessandro? Però dicevi che nonostante queste grandi performance raggiunse poca fama, quindi ho anche io una storia triste. Dove sta? Jimmy Reed, che mo pare che è morto Lou Reed, no, non c'entra niente, stesso cognome, però non è un omaggio, non c'entra niente, una casualità, anche se cazzo, regà, è morto Lou Reed e ci dispiace a tutti, ma molto molto molto. Potremmo omaggiarlo in qualche modo nelle prossime puntate. Ma sì, perché tanto mo si perderebbe nel marasma, perché hai visto, no? Oggigiorno, no? Uno muore e tutti erano il più grande fan, no? Cioè, io che ne so, Lou Reed, questa mona stupidaggine, no? Perché Whiskey Trip è anche sociologia, quindi analizziamo queste cose. Allora, tu posti su Facebook gli Aqua, posti Guns N' Roses, posti questi gruppi qua, i mi piace, cioè, si sa, fanno le curve. Lou Reed l'ho postato 4-5 volte quest'anno, perché se caga a nessuno, se non qualche amico lì misantropo nell'ombra che veramente apprezza, mo è morto. Tutti Perfect Day, tutti Walk on the Wild Side, che Lou Reed stesso si incazzerebbe, perché si incazzava con i suoi fan che volevano sempre queste due canzoni. Succede, sì, quasi sempre succede così. Quindi raga, vogliamo lanciare sto messaggio, cioè se non vi piace un artista non lo fate piacere quando muore, perché è veramente fastidioso. Lou Reed Porello ha fatto una carriera strepitosa, tanto, cioè, addirittura dischi di puro rumore, cose del genere, cioè Lou Reed non è perfetto. Quindi, cioè, scusa Alessandro, volevo tirare le orecchie a chi si spaccia per fan quando gente fighissima muore, punto. Allora, dicevamo, un'altra storia triste. Jimmy Reed era specializzato nel campo dell'electric blues, in opposizione ai suoi contemporanei che erano basati sull'acoustic blues. La sua cantata pigra, lenta, l'armonica penetrante, i campioni della chitarra ipnotica furono alcuni dei suoni più facilmente identificabili del blues degli anni 50 e 60. Poi nel 50 si affermò come musicista, diciamo, popolare, non riuscì a concludere un contratto con la nota Chess Records, ma riuscì con la DJ Records, con cui avrebbe inciso la sua prima hit, You Don't Have To Go, seguita da altri successi. Nel 57 sviluppò però, ahimè, l'epilessia, che non sarebbe stata presa sul serio perché diagnosticata molto dopo su quello che sembrava delirium tremens. Nonostante quindi le molte hit, i suoi problemi personali impedirono di avere lo stesso successo degli altri artisti blues, anche se fece più canzoni di tanti altri, pensa. Quando la VJ Records chiuse, firmò un contratto con la ABC Records, ma non fu capace di fare un'altra hit. Cioè, molto triste, però vi garantiamo che Jimmy Reed, ragazzi, era un grande, e quindi ce l'ascoltiamo con She Don't Want Me No More su Radio Default. Yeah. your last protection, and I tell you no, I don't want you no more. Girl, you know I love you, and I can't stand to see you go. Eccoci qui, e allora adesso è il momento del jazz, il momento del jazz dopo questo inizio di puntata dedicato al blues. Passiamo a una grande icona del jazz, che è Miles Davis. E allora, ascoltato molto di Miles Davis, non potrebbe essere altrimenti, dato il genio che è stato e dato il contributo che ha dato alla musica, al jazz e non solo. E allora torniamo indietro nel tempo fino al 1956, quando Miles Davis incise insieme ad altri quattro tra i migliori musicisti jazz sulla scena del momento. Parlo di John Coltrane al sassofono, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. Fanno paura veramente questi nomi, pensare che questi cinque musicisti si ritrovavano insieme nello stesso studio di registrazione fa paura veramente, e per la quantità di genio che si poteva respirare quelle sessioni. Questo era il famoso Miles Davis Quintet, il quintetto di Miles Davis, che ha fatto scalpore tra gli anni 50 e 60. E appunto nel 56 questo quintetto incise quattro album che vennero registrati in sole due sessioni, una nel mese di maggio e l'altra a ottobre appunto dell'anno 1956, e pubblicati a qualche anno di distanza, a qualche tempo di distanza, con questi quattro modesti semplici titoli: Cooking, Relaxing, Working and Steaming with the Miles Davis Quintet. E pensavo che adesso ho capito perché le discografie, no? Dei jazzisti spesso sono così numerose, centinaia e centinaia di dischi, perché appunto uno si alza la mattina e si reca in studio e in una sessione registra due, tre album. Si alza la mattina, in caso di forse tanto genio, d'alzi almeno a mezzogiorno, cioè, perché succede pure nel mio caso, quindi cioè, so di cosa parli. Forse la no, forse sessioni di registrazione notturne erano frequenti tra i jazzisti. Comunque, ecco, una sessione, due o tre dischi, e quindi uno in 40 anni di carriera quante sessioni può fare, possiamo farci un'idea di quanto materiale ci sia. E comunque parliamo di dischi anche, insomma, non dischetti, dischi che sono rimasti nella storia del jazz e del bebop. E allora, da cooking e poi cucinare, che in realtà nello slang americano, qui potrebbe aprirsi tutto un altro discorso, nello slang americano cook significa farsi di metanfetamine. E forse anche per questo che registrano. Beh, forse sentendo l'album. Allora, Cooking, quindi Miles Davis Quintet, Blues by Five. E invece, dopo aver Cooking, Relaxing. Ci rilassiamo. I Could Write a Book. Quindi davvero due capolavori qui a Whiskey Trip. E buon ascolto, grazie ai nostri ascoltatori. Allora, Daigon Miles Davis. Straordinario il quintetto di Miles Davis, abbiamo appena ascoltato qui su Whiskey Trip, erano I Gold Ride Book, Blues by Five, da questi due dischi del Miles Davis Quintet Cooking e Relaxing, due dischi del 1956. E allora, ancora con il grande jazz, come andiamo avanti? Andiamo avanti, che stavo facendo ai ragazzi là un annuncio, perché stava finendo questa rete. Non ho detto che per me è l'ultimo mercoledì e dal prossimo, ragazzi, sono stato assunto, o sai dove? No, vedo già che sbianchi. È quello di cui ti avevo parlato, adesso. Dai, dillo tu, radio. Dai, vediamo se indovini. Ah, ho capito. Hai capito? Sì. Radio Maria, ragazzi. Radio Maria. No, non è vero. Però stavamo dicendo sta cosa. Dai, no, niente, andiamo avanti. Fai la trasmissione con padre Livio. La allora, spalla... ragazzi, se mi permettete di leggere un passo del Vangelo, aprite le vostre con Bibbie a pagina... Con sottofondo di Robert Johnson. Esatto, esatto. Un Vangelo in blues. Manco morto, scusate, che ci siamo un attimo arenati, eravamo in pausa dopo le tracce del grande Miles. E volevo procedere così, per riprenderci con un pezzettino di un sassofonista che so che leggermente ti piace. E questa traccia si chiama pure Hat and Beard, cappello e barba, che mi pare un segno di stile, distinzione e di una certa sobrietà. Vogliamo dire qualcosa su di lui? So che sei un grande fans. Allora, in questa registrazione lui si cimenta al clarinetto basso, che è uno strumento di solito prediletto di una certa avanguardia jazz, di cui Eric Dolphy è stato sicuramente un grande esponente. E il disco invece è Out to Lunch del 64, e Eric Dolphy era anche compositore, e allora veramente barba e cappello, barba e cappello. Un certo stile a Whiskey Grip. Buon ascolto. Yeah. Jazz di Eric Dolphy qui quando si avvicina la mezzanotte, e allora ideale la notte, ideale per il jazz, per la musica. momento migliore, come diceva qualcuno. Appena svegliati. Appena svegliati. Allora, Lenny Tristano, che è un pianista, anche lui a volte è rimasto in ombra nella storia del jazz, ma ultimamente ampiamente rivalutato, un pianista americano di, come il nome lo dice, di origini italiane. Lenny Tristano, dal suo disco del 1962, The New Tristano, il primo si chiamava Lenny Tristano, il secondo The New Tristano, lui il terzo? Il terzo The Final Tristano. Ma lui era jazzista forse un pochino atipico, una personalità molto colta, non vedente e un talento precoce. Lo testimonia questo disco di piano solo. Sono moltissimi pianisti che con grandi risultati si sono avventurati nell'incidere album di soli solo pianoforte. Lui è uno di quelli che ce la fa assolutamente. E sì, una personalità molto colta, era anche un insegnante di jazz, di armonia e composizione jazz. Alfiere dello stile cool, e molte volte ispirato anche dai compositori classici, insomma uno molto serio, ma con lo swing nel sangue. E allora il pezzo si chiama G Minor Complex, e sì, anche il titolo rimanda a queste sue fascinazioni classiche e di una certa complessità, complesso in sol minore, questo stile geometrico di Lenny Tristano. E allora, senza troppe parole, non voglio dilungarmi troppo, G Minor Complex. ben trovati dopo Lenny Tristano. Andiamo spediti perché il tempo stringe, la notte è ancora giovane per noi, e quindi per voi un Wayne Shorter, un grande sassofonista che piace molto a me ed Alessandro. Ascoltiamo Speak No Evil. Bye. da quando te ne sei andata i giorni sembrano più lunghi e presto ascolterò quelle vecchie canzoni d'inverno. Mi manchi più di ogni altra cosa quando le foglie d'autunno iniziano a cadere. Bill Evans, Autumn Leaves. Bentornati dopo questo classico sempre piacevole da ascoltare. E tristemente, amici, siamo in chiusura, però lasciamo un'ultima chicca, Alessandro. Sì. Un ultimo pezzo. Questo è veramente... Ne vogliamo scomodare proprio tre dall'alto. Tornando pure verso il blues, dopo questa parentesi di buon jazz. Sì. E allora, Alessà, cambiando molto l'atmosfera da quest'ultimo pezzo, tornando a terra, tornando alle radici. Dinne uno, dai. Scegli. Allora, Chuck Berry. Keith Richards. Insieme a Eric Clapton. Cavoli. Cavoli, che fanno? Una jam. Una jam session. Una jam per voi. E troverete tra poco... Cioè, questo video lo trovate in realtà già sulla nostra pagina. L'abbiamo messo quando? Ieri? Non... Sì, questi giorni. Vabbè, oggi insomma, stesso. Aprite la nostra pagina Facebook, che è www.facebook.com/whiskytrip, tutto attaccato. Mettete mi piace e vi trovate questo video che intanto vi ascoltate solo in formaglio. Quindi quando ci rivediamo, Alessandro? Ci vediamo la prossima settimana, mercoledì 21:30, 22 al massimo. E sì, poi insomma ci aggiorniamo sulla pagina. Grazie a tutti i nostri ascoltatori. Buona serata, buon proseguimento di serata, se proseguite, oppure buonanotte e buon ascolto. Dai, regà. Okay. I tell you what, I'm gonna come up here while y'all are working. Oh, that's great. Hey, gang, come on, we've been working hard. Play it. All right. We have been working hard. Let's take a break. Let's take a break and jam a little bit. Come on, fellas. Here. baby, when you keep on snatching it back. I mean, yes, yes. Yes, yes. I mean, yes, yes. I mean, yes, yes. Chuck Berry and Johnny. Cioè gratis.